It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non più. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli la luce del giorno non riesce mai a penetrare, Kappa e Drago fanno le prove generali. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Sono sciamano, ingoia tutto. Sciamano, ingoia tutto. Sciamano, ingoia tutto. Vabbè, ma non puoi così pretendere. Sei assolutamente credibile, Drago. Sì. Tranquillo. Sì. Dai, adesso possiamo andare dai mercenari. No, dai, ti dai. Prego. Ce ne sono lì due, vai. Chi era? Chi era? Scusate, mercenari, mercenaire. Alors, bien vous parlez, hein? Voici le. Lui è le remplacement du chaman du colonel Ungute. Sono sciamano, ingoia tutto. Voyez? Tutto. Qui portatelo pure al cospetto del colonel, le colonel, le porté chez le colonel. Colonel. Io resto qui. Bon, alors ça va, hein? Ciao Drago. Allora, no, Drago, lo sciamano. Ma come chiami Drago davanti ai mercenari belgi? Buona fortuna, belgi. No, buona fortuna. Sei impazzito. Sì, Drago, non se ne accorgono. Non si accorgono nemmeno del fatto che tu stai parlando normale e non da sciamano africano, capito? Ah già, sono sciamano, ingoia tutto. Portatemi dal colonnello Ungute. Sono pronto. Okay. Andiamo, ecco. Kappa. Ma Kappa, non facciamolo, veramente, ho cambiato idea. Ingoia tutto. Ingoia tutto. No, tranquillo, Drago. È solo un manganello. Nel frattempo, il pollo in sbattimento si è convertito al cristianesimo grazie alla scintilla della fede scaturita dal confessionale elettrico. D'ora in poi il mio fine sarà quello di convincere gli altri che bisogna convertirsi. Sarò una specie di testimone di Geova che spacca e maroni a tutti per far propaganda a Gesù. Polli, siate veri polli e convertitevi. Convertitevi. Convertitevi. Convertitevi. Scusi lei, mi sembra un pollo iscritto all'Opus Dei. Io l'ho vista, sa, lei lascia tracce matiche in città. Convertitevi. Scusa, sai, ti do del tu, ma non ti sembra un po' blasfemo stare con le chiappe al vento, con la frusta in mano, a dir l'Ave Maria? Maria, Maria, ti amo. Chiedi a me se vuoi due calci in culo. Chiedi a me, vuoi essere mortificato? Chiedi a me, vuoi due frustate al volo? Chiedi a me, se vuoi ti recito Baudelaire e i fiori ti faranno male. E spero possano bastare, altrimenti te ne do. Scusate, buongiorno. buongiorno, mi presento. Sono un pollo Renato. Già, Renato, grazie a Gesù. Vorrei incontrare il colonnello Unghiute per discutere con lui di religione. Sapete, io prima ero un ateo senza fede, una pecorella smarrita. Vagavo per la fabbrica senza un dio, senza un ideale in cui credere. Ero confuso ed ero anche sbattimento. Allora per lo sbattimento hanno cominciato a darmi la paroxetina. Insomma, le cose sono andate meglio. E sono convinto che se mi fate parlare anche solo un minuto con il colonnello Unghiute, condurrò anche lui verso la vera e unica fede. Lui ha fede soltanto nelle sciamani, ma le sciamani non sono mica seri e affidabili come un buon parroco di campagna. E io sono proprio come un buon parroco di campagna. Io sono un tipo pane al pane e vino al vino. Unghiute invece è più un tipo pollo arrosto e lo spiedo. E anche uomo arrosto e allo spiedo. Lo so, ma la mia fede illumina tutto e illuminerà anche lui. Sono Samano Ingoia Tutte, Ingoia con J. Drago, ma cosa ci fai tu qui? Ma come hai fatto a riconoscermi subito, scusa? Un pollo gigante pitturato di nero? Che pollo, Non puoi che essere tu, No, veramente io sono un uomo di corporatura media travestito da sciamano Ingoio Tutto, Ingoio con la J. Su dai, lasciamo stare, va? Lasciamo stare. Ma dove vai conciato così? Devo parlare col colonnello Unghiute, devo convincerlo anch'io, che sono il cugino. Anche tu? Anch'io. E cosa vai a fare? Io devo convincerlo ad andarsene e a convertirsi al cristianesimo. No, io devo impersonare il cugino del suo sciamano, però non ho nessuna voglia. Guarda, ti dico la verità, pollo, se vuoi andare tu, vai tu, magari il tuo piano funziona meglio. Senti, togliti dai piedi, e datti una lavata, perché così sei proprio inguardabile. Ci penso io con il fedele di un Unghiute. Due paroline di quelle giuste e divento un padre missionario. Pronto? Pronto? A chi parla? Sono l'amministratore delegato. Amministratore, ma dove era finito? Il suo numero di cellulare risultava inesistente fino a poco fa. Non posso dire niente per il momento, perché ovviamente sono situazioni delicate che non vanno divulgate, ma è tutto a posto, non vi dovete preoccupare. Ma come a posto? Sono molto soddisfatto della mia efficienza, della mia lucidità, grazie alle quali il nostro problema non è più un problema. Ma come, il colonnello Unghiute? Ha un'opportunità. Ma il colonnello Unghiute? Vabbè, forse di voi mi posso fidare, non sono sicurissimo, ma ci provo. Adesso, scusate, si sente forse un po' disturbato. Ma infatti, ma dov'è? Ma dov'è al mare? Sono in riva al mare, perché... Ma... Diciamo così, che io e il colonnello Unghiute ci siamo presi una pausa di riflessione, diciamo, Al mare? Pausa di riflessione. Sì. Abbiamo scelto un posto dove poter analizzare con calma la situazione. E già che siamo qua in questa atmosfera, quest'aria pura, dove possiamo fare footing alla mattina vestiti di bianco, con i pantaloni corti, senza sentirci dei ragazzotti, ma noi con il colonnello Unghiute abbiamo trovato un accordo, ragazzi. Quindi, aiuto, ma cosa c'è? Cosa c'è? Ho trovato bufera, pronto? Un accordo con il colonnello Unghiute. Ma che tipo di accordo? Un accordo commerciale, un accordo di pace? Come potrete forse così intuire dal tono gaudente, insomma così, della mia voce, perché fatico un po' a trattenere la soddisfazione, ma stringa. In questo momento devo dire più che la soddisfazione, la gioia. Ecco, la gioia perché io e Unghiute, che siamo due uomini di livello, abbiamo saputo cogliere questa grande opportunità. Ci siamo guardati negli occhi, abbiamo per un attimo abbassato le armi e abbiamo capito di essere innamorati, per cui profittando anche delle leggi vigenti, con un bel pax, ci sposiamo. Che cosa succederà adesso? Il colonnello Unghiute e l'amministratore delegato si sono davvero sposati con un pax. Aspettate tutto il weekend e poi risintonizzatevi lunedì a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo catastrofico allestimento de... La fabbrica di polli. Anche sul podcast di Radio Rai. La fabbrica di polli, un programma di Cappa e Drago, con Guido Bertolotti, Alberto Caserini, Luca Gemma, Luca Monarca, Alberto Onofrietti. La fabbrica di polli @rai.it, barlumen.com. La fabbrica di polli produce, non chiude. Good night, ladies and gentlemen. Barlumen.